vestite, infiammano il mare l'estate. L'inverno è come l'autunno, non piove mai a Capodanno. Nei bar affollati puoi dirmi segreti, fantasmi e silenzi, insulti indecenti che beba accarezza come un filo di seta. Da Piazza Cavana nel porto arrivano segnali dall'est, e come una vela lei vola, all'alba Trieste si svela, all'alba Trieste si svela. Se pochi camminano a piedi, c'è un posto a Trieste che credi, un castello di foglie di fico, un castello dove niente è proibito. Mi parli e negli occhi ho il tuo link, ti rispondo con i miei smali, coi denti. I miei occhi attraversano il mondo, le tue mani attraversano i venti. Da Piazza Cavana sul porto arrivano segnali dall'est, e come una vela lei vola, all'alba Trieste si svela, sì, all'alba Trieste si svela. Lunatica luna divina, di pause riempie i miei vuoti, ma quando mi parla è signora, e forse anche un po' bambina. La guerra di guerre ne ha fatte su questa striscia di terra italiana, tra l'acqua lì come una spugna emerge uno scoglio, una lama. A Piazza Cavana sul porto arrivano segnali dall'est, e come una vela lei vola, all'alba Trieste si svela, all'alba Trieste si svela. Da Piazza Cavana sul porto arrivano segnali dall'est, e come una vela lei vola, all'alba Trieste si svela, all'alba Trieste si svela.